rassegna stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Pensavamo settimana scorsa di poter finalmente dire accordo raggiunto, accordo imminente per la Grecia, forse l'avevamo anche detto. In realtà poi si è visto che purtroppo l'accordo tra Bruxelles sostanzialmente e il governo di Atene non è stato raggiunto. E allora la Welt, che è un quotidiano tedesco, si è proprio esercitato in un lungo articolo per capire che cosa sia andato storto tra Atene, Bruxelles e Berlino, perché naturalmente la Germania ha un ruolo importantissimo in questa trattativa, perché ha sempre tenuto a sottolineare che non bisogna cedere sulle richieste fatte alla Grecia, perché la Grecia sostanzialmente sono anni e anni e anni che non attua le promesse fatte, soprattutto che sappiamo falsifica i conti, e tutto questo ha poi portato al disastro che è adesso sotto gli occhi di tutti. L'articolo è molto lungo, però lo potete leggere in italiano grazie, sapete, al sito che è una delle mie passioni, presseuropa.eu. È una ricostruzione proprio in 7 punti che parte da molto lontano e cerca di capire se questa Grexit, cioè questa uscita della Grecia non tanto dall'Unione Europea, lo ripeto sempre, ma dall'euro, quindi dall'eurozona, sia un pericolo economico. La risposta è probabilmente non così grande come poteva sembrare, però sicuramente sarebbe un grande colpo all'idea di Europa, all'idea di euro. E allora vi elenco questi 7 punti brevemente, ma come vi dicevo potete leggerlo tutto questo articolo ed è forse uno dei più completi, perché anziché seguire la cronaca, che è importante, però purtroppo poi dimentica, spesso seguendo la cronaca ci si dimentica delle ragioni che hanno portato a una certa situazione, ecco, anziché seguire la cronaca farà proprio un excursus storico della situazione economica della Grecia sostanzialmente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi. E quindi questi 7 punti: attenzione eccessiva sui conti, microgestione provocatoria, tagli alla spesa sbagliati, misure lievi invece che drastiche, mancata consapevolezza dei problemi, sgravio troppo timido e assenza di prospettiva. E se per caso qualcuno di questi punti vi sembra che in qualche modo si possa applicare anche all'Italia, effettivamente dovremmo stare molto attenti anche su questa, soprattutto sull'idea che appunto le riforme, quando vanno fatte, e Spagna e Portogallo in questo anche ci insegnano qualcosa, quando vanno fatte in un momento di emergenza sono forse dolorosissime, senza forse, però vanno fatte drastiche così come vengono configurate, perché poi nel medio-lungo termine i vantaggi si vedono. Ma vediamo allora, per esempio, parlavamo della cronaca, ecco, secondo la Süddeutsche Zeitung, un altro quotidiano tedesco, la prossima data importante, che è quella del 24 aprile, in cui ci sarà un incontro sempre sulla crisi greca, a Riga non sarà risolutoria. Secondo il quotidiano tedesco, a Riga non ci sarà alcun accordo, è escluso che si possa arrivare a concordare un programma di riforme concreto e vincolante, continua il balletto tra il governo di Alexis Tsipras e Bruxelles. Alexis Tsipras propone una lista, poi però Bruxelles dice no, non è sufficiente, e quindi appunto mancano pochi giorni al 24 di aprile, a Riga ci si incontrerà di nuovo tutti, ma secondo la fonte interpellata dalla Süddeutsche Zeitung c'è stato un sondaggio anche informale tra i commissari, e questi tra i 27 commissari a cui è stato chiesto appunto: ma la Grecia la vogliamo salvare? Certo che la vogliamo salvare, va salvata e va evitata la Grexit, ma alla seconda domanda ci si riuscirà soprattutto in tempi ragionevoli e con condizioni che poi veramente rendano il salvataggio sensato, a quel punto nessuna delle mani si sarebbe sollevata. Invece la Frankfurt Allgemeine Zeitung dice che, anche qui cronaca pura, dice che in realtà ci sarebbe un'altra scadenza prospettata alla Grecia, e questa ancora più vicina, si tratterebbe di lunedì 20 aprile, quindi tra 2 giorni. Entro questa data la Grecia dovrebbe presentare l'ennesima lista di riforme, e se in questo caso questa lista fosse ritenuta accettabile, si potrebbe sbloccare l'ultima tranche di aiuti promessi nell'ambito del piano di salvataggio per diversi miliardi di euro. Perché ricordiamo che appunto non si tratta solo di trovare una soluzione per il futuro, e quindi per la Grecia del futuro, perché la Grecia trovi un nuovo ruolo, anche nuove condizioni nei rapporti con Bruxelles, ma si tratta anche di sbloccare quegli aiuti di cui la Grecia, il governo greco, Tsipras, il suo come possiamo definirlo, esuberante ministro delle finanze Varoufakis hanno bisogno, perché in Grecia, lo abbiamo detto tante volte nelle settimane scorse, sono stati ritirati tantissimi soldi dalle banche, c'è proprio un rischio di drenaggio di fondi dalle banche e la Grecia comunque deve continuare a pagare gli stipendi, per esempio, di tutta la parte pubblica, che in Grecia e tra l'altro è uno dei problemi strutturali del paese. In Grecia è grandissimo il settore pubblico. Ecco, secondo quanto scrive la Frankfurt Allgemeine Zeitung, che ricordiamo è un giornale molto austero rispetto alla Süddeutsche Zeitung, ha posizioni un pochino più di centrodestra, quindi forse ancora più dure di quelle della Süddeutsche Zeitung. Diciamo che se la Süddeutsche Zeitung pubblicava a malincuore l'idea che i commissari disperino di poter salvare la Grecia, la Frankfurt Allgemeine Zeitung è più proprio su una posizione da maestrina, un po' come quella della Merkel. E quindi la Frankfurt dice che i negoziatori greci e quelli dell'Unione Europea fanno fatica a trovare questo accordo su questa tranche che, pensate, vale 7,2 miliardi di euro. Perché? Soprattutto perché Tsipras continua a rifiutarsi di prendere in considerazione il taglio delle pensioni dei dipendenti pubblici. Ricorderete che Tsipras, il vincitore, il leader di Syriza, il vincitore delle elezioni greche e premier, aveva fatto molte promesse in campagna elettorale. Una di queste era di non tagliare le pensioni in particolare dei dipendenti pubblici. Ora, e anche qui il parallelo con l'Italia sicuramente ci suona familiare, in realtà queste pensioni vanno tagliate, almeno secondo le pretese, diciamo così, di Bruxelles. E allora il governo Tsipras, spiega sempre la FATS, starebbe cercando invece di compensare, di convincere l'Unione Europea che si possono evitare questi tagli facendo la lotta all'evasione fiscale. Anche qui vi suona familiare, perché l'evasione fiscale è una cosa, la Grecia ha un'evasione fiscale ancora maggiore della nostra. L'evasione fiscale, certo, sarebbe il toccasana, ma come si vanno a prendere gli evasori fiscali? Questo è una proclama che poi fatica molto a tradursi in provvedimenti pratici. Tra l'altro questo articolo della FATS è stato poi subito criticato dal ministro Varoufakis, dicendo un po' non disturbate il manovratore, ma è un po' questo ruolo dei giornali, cioè cercare di capire, visto che questa trattativa va avanti da sempre, veramente dove si è e quali sono i nodi da sbloccare, visto che le dichiarazioni diplomatiche sono sempre molto diverse da quello che poi è la realtà, o magari non sempre, però spesso. E vediamo per esempio che anche Financial Times ovviamente ha continuato a occuparsi della questione greca. E secondo Financial Times adesso i rappresentanti del governo greco avrebbero ripreso anche i contatti col Fondo Monetario Internazionale, che sapete faceva parte della Troica insieme a BCE e Commissione Europea, poi è stato un pochino estromesso perché si riteneva che le posizioni del Fondo Monetario Internazionale fossero di grande ostacolo alla soluzione della trattativa. E però adesso, ricorda Financial Times, c'è un'altra scadenza che coinvolge il Fondo Monetario Internazionale, è che il 12 maggio la Grecia deve restituire 747 milioni di euro. Nel frattempo i titoli di Stato sono di nuovo sotto forti pressioni, tanto che i rendimenti sui bond a 10 anni di scadenza hanno superato la soglia del 13% e quelli del biennale, pensate, sfiorano il 27%. A confronto, ricorda Financial Times, i tassi sui bond della Germania, cioè i titoli di Stato tedeschi, schiacciati dal piano di acquisti della BCE, il famoso quantitative easing, stanno all'opposto segnando nuovi minimi storici, ma con rendimenti allo 0,1%. Vi segnalo, sempre grazie a PressEurope.eu, che una bellissima mappa, un'infografica molto interessante, cambiamo un po' argomento, scusate, abbiamo un po' monopolizzato la rassegna con la questione greca, ma mi sembrava importante, da questo mappa che trovate su Wikipedia, e che si chiama Small Arms Survey, ed è interattiva, quindi cliccando potete anche vedere meglio di che cosa si sta parlando, mostra quali sono i paesi dove le persone possiedono più armi da fuoco, un argomento sempre di attualità. Le notizie in generale degli incidenti domestici per persone che possiedono armi da fuoco, così a titolo personale, di difesa personale, in generale arrivano dagli Stati Uniti, però è chiaro che se aumenta la diffusione delle armi forse potrebbero aumentare anche gli incidenti. Allora si scopre che in Europa è la Serbia a essere la prima proprio dietro agli Stati Uniti, che è il primo paese al mondo per numero di abitanti per 100 residenti che possiede un'arma da fuoco. La Serbia ne ha 69,7 ogni 100. Subito dopo viene la Svizzera, un po' staccata, però con un numero importante anche in questo caso, che è 45,7. Poi Cipro. E ci sono 4 paesi scandinavi, Svezia, Norvegia, Islanda e Finlandia, che tutto sommato, un po' a sorpresa, sono tra i primi 10 paesi europei. La Romania è l'ultima, soltanto 0,5 abitanti su 100 possiedono un'arma da fuoco. L'ultimissima segnalazione che ho tempo di farvi viene da Euronews, riguarda l'immigrazione. Abbiamo avuto questi ennesimi bollettini di guerra, purtroppo le condizioni meteo sono migliorate, quindi sono aumentate le traversate e aumentati gli sbarchi. E ieri Natasha Bertot, che è il portavoce della Commissione UE in materia di immigrazione, ha confermato la preoccupazione, ha confermato l'impegno a aumentare i salvataggi come avveniva quando era in vigore al 100% Mare Nostrum. Ha detto però che Triton resta la scelta attuale dell'Unione Europea e quindi purtroppo anche su questo fronte prepariamoci ad altre notizie e per la maggior parte, nella maggior parte dei casi, saranno più brutte che belle. Vi auguro comunque un buon sabato. Ancora grazie per l'ascolto da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.